Ellero, come interpreta l'SPQR di Bossi? Io credo che Bossi dovrebbe mandare una fattura al comune di Roma facendosi pagare per la pubblicità che ha fatto a Roma. Non è che Roma abbia bisogno di No, pubblicità. parlare di Roma, no? Sì, lei dice, dà modo ad Alemanno di uscire fuori con le sue frasi, con la difesa di Roma, eccetera. Questo politicamente sicuramente è una cosa che fa comodo al sindaco, a tutti, come dire, i politici, Ma no? parliamoci chiaro, è una cosa di talmente cattivo gusto che non è il caso di soffermarsi, per cui si deve capire che questo è il ministro delle riforme. E allora? Capisco che se un ministro delle riforme si esprime in questo modo e poi come alternativa a quella del dito medio alzato, capisci che siamo messi male.